E siamo arrivati ad Augustin Doroteo. Augustin Doroteo è sicuramente un personaggio tragico. Un personaggio che nella vita ha sviluppato un sacco di fobie, paure, repressioni, fino a diventare omofobico, razzista, pieno di paura verso il prossimo. L'unico modo che ha di sopravvivere è quello di aggrapparsi alle buone maniere. Si chiama Augustin Doroteo non a caso, fa riferimento a una corrente di pensiero, il doroteismo, che mi ha fatto venire in mente un sacco di politici che ci stanno intorno. E lui è un po' la descrizione di questo, una persona viscida, impaurita, senza scrupoli, ma appunto che è per bene nei modi. Una persona sicuramente pericolosa e tragica, che io ho pensato di poter prendere per il culo. Oh baby, right now rock and roll, you! Grasso e sporco, ma per bene nei modi. Augustin Doroteo adorava quei due nomi. Grasso e sporco, il malvivente per caso. Augustin Doroteo non sapeva il proprio nome. Ma grasso e sporco, il malvivente per gioco. Augustin Doroteo adorava quel suo nome. Ragazzi di strada si facevano più vicini, colorati come tacchini, disperati come assassini. E ragazzi di strada si facevano più vicini, colorati come tacchini, disperati come assassini. E ragazzi di strada si facevano più vicini, colorati come tacchini, disperati come assassini. E ragazzi di strada si facevano più carini, pettinati come assassini. Combinati come tacchini, ma grasso e sporco e per bene nei modi. Augustin Doroteo adorava il suo nome. Ma grasso e sporco è rivoluzionario davvero. Augustin Doroteo non sapeva il proprio nome. Ragazzi di strada si facevano più vicini, colorati come tacchini, disperati come assassini. E ragazzi di strada si facevano più vicini, colorati come tacchini, pettinati anche come assassini. Grasso e sporco, ma per bene nei modi. Augustin Doroteo custodiva i suoi dolori. Ma grasso e sporco, rivoluzionario davvero. Aveva stretta amicizia con i ragazzi del mio coro. Handicappati per davvero, handicappati per davvero. Augustin Doroteo sapeva solo quei due nomi. Grasso e sporco, cattivo sul serio. Augustin Doroteo aveva una mano grossa sul divano. Augustin Doroteo grasso e sporco, ma per bene nei modi. Augustin Doroteo adorava i suoi due nomi. Grasso e sporco, ragazze di strada si facevano più vicini, pettinati come tacchini, disperati come galline. Ragazzi di strada si facevano più vicini, pettinati come assassini, disperati come assassini. Augustin Doroteo adorava i suoi due nomi, grasso e sporco, rivoluzionario sul serio. I ragazzi handicappati del mio coro, quei ragazzi del mio coro, handicappati, handicappati per davvero. Augustin Doroteo non aveva mai dolori, ma grasso e sporco e malvivente per caso. Augustin Doroteo si era innamorato. Grasso e sporco e malvivente per gioco. Augustin Doroteo quando muoveva quella mano. Le ragazze di strada si facevano più vicine, colorate come tacchine, disperate come assassine. Le ragazze di strada si facevano più vicine, combinate come galline, scolettanti come tacchine. Le ragazze di strada si facevano più vicine, colorate come tacchine, pettinate come galline. Le ragazze di strada si facevano più vicine, combinate come galline, scolettanti come tacchine. Ma se sporco, per bene nei mori, Agustin Doroteo non aveva mai dolori. Grazie sporco, ma per bene nei modi, Agustin Doroteo non aveva mai dolori. Ragazzi di strada, ragazzi di strada, ci facevano più vicini, colorati come tacchini, disperati come assassini. Ragazzi di strada, ci facevano più vicini, colorati come tacchini, disperati come assassini. Le ragazze di strada, si facevano più vicine, colorati come tacchini, disperati come galline. Le ragazze di strada, si facevano più vicine, wow, wow. Non aveva mai un dolore. Ma se sporco, ma sporco, sporco, sporco, sporco, sporco di merda. Grasso davvero. Grasso e sporco, sporco per davvero. Agustin Doroteo muoveva quella mano lontano, lontano. Agustin Doroteo. Grasso e sporco, ma per bene nei modi. Agustin Doroteo non aveva mai dolori. Grasso e sporco e ma vivante per caso. Agustin Doroteo costruiva negra sul divano. Costruiva una negra sul divano. Verso i suoi due grandi cilindro. Il suo unico grande monocilindro. Johnny, non sa.